Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster, traduzione di Marcella Bonsanti. Gli Honeychurch erano degne persone, ma Cecil cominciava ad accorgersi che Lucy era una creatura di tutt'altro stampo, e forse questo sul momento lo lasciò un po' nel vago. Sarebbe stato opportuno introdurla in ambienti più congeniali appena possibile. «Il signor Bibb», annunciò la cameriera, e il nuovo rettore di Summer Street fu fatto passare in salotto. Aveva stabilito immediatamente rapporti amichevoli con gli abitanti di Windy Corner, grazie agli elogi prodigatigli da Lucy nelle sue lettere fiorentine. Cecil gli rivolse un saluto non esente da un'ombra di critica. «Sono venuto per il tè, signor Weiss. Lei crede che potrò ottenerlo?» «Sì, senza dubbio. In questa casa è il cibo che si ottiene prevalentemente. No, non si metta a sedere in quella sedia. Il giovane Honeychurch ci ha lasciato sopra un osso.» «Boh. A chi lo dice?» rispose Cecil. «A chi lo dice? Trovo incomprensibile che la signora Honeychurch permetta questo e altro.» Cecil, infatti, considerava separatamente il mobilio della ditta Maple e l'osso di Freddy. Non si avvedeva che, presi nel complesso, infondevano nella stanza quel calore di vita di cui deplorava l'assenza. «Sono venuto a prendere il tè, ma anche a spettegolare un tantino. Non è una gran novità?» «Novità?» ripeté Cecil. «Non la capisco. Che novità?» Il signor Bibb, la cui novità era di natura ben diversa da quella di Cecil, continuò a chiacchierare tranquillamente. «Mentre venivo qui, ho incontrato Sir Harry Otway, e spero proprio di essere il primo a mettere il campo al rumore. Sir Harry ha comprato Sissy e Albert dal signor Fleck.» «Ah, davvero?» disse Cecil, cercando di ricomporsi. In che errore grottesco era cascato! Come aveva potuto pensare che un sacerdote, e un gentiluomo per giunta, alludesse al suo fidanzamento con tanta indelicatezza? Ma rimase sostenuto e, malgrado chiedesse chi erano mai Sissy e Albert, non mutò parere sul conto del signor Bibb, che giudicava un po' caffone. «Ecco una domanda imperdonabile. Essere ospite a Windy Corner da una settimana e non avere fatto ancora la conoscenza di Sissy e Albert, le due villette gemelle che sono spuntate come la malerba di fronte alla chiesa. Le lancerò la signora Honeychurch le calcagna.» Il signor Bibb cercò di cambiare discorso. «Vediamo un po', signor Weiss, l'ho dimenticato. Qual è la sua professione?» «Non esercito alcuna professione», disse Cecil. «Ecco un altro esempio della mia decadenza, secondo me, ma è un punto di vista affatto insostenibile. Purché io non dia noia a nessuno, ho il diritto di agire a modo mio. So che dovrei fare soldi a danno del prossimo o dedicarmi ad attività di cui mi infischio altamente, eppure, per qualche ragione che mi sfugge, non sono mai stato capace di provarmici.» «Lei è fortunatissimo», osservò il signor Bibb. «Poter disporre di tutto il proprio tempo è una prerogativa più unica che rara.» La sua voce suonò un po' parrocchiale, ma gli riusciva difficile rispondere con naturalezza. Era persuaso, come devono esserlo tutti coloro che esercitano un'occupazione regolare, che sarebbe giusto ce l'avessero anche gli altri. «Mi consola trovarla consenziente. Non ho il coraggio di affrontare l'individuo integerrimo. Freddy Honeychurch, per esempio. E via, Freddy è un bravo ragazzo, no? Ammirevole. Uno di quei bravi ragazzi che hanno fatto dell'Inghilterra ciò che è oggi.» Cecil si meravigliò di se stesso. Perché, per l'appunto, quel giorno doveva sempre atteggiarsi a bastian contrario? «Dove mai sono andati gli altri?» disse alla fine il signor Bibb. «Esigo che mi si offra il tè prima della funzione serale.» «Scommetto che Anne li avrà informati della sua venuta. In questa casa si seguono corsi accelerati sulla servitù fin dal giorno del nostro arrivo. Anne ha il difetto di farsi sempre ripetere quello che le si è detto, mentre ha capito benissimo, e di affibbiare pedate alle gambe delle sedie. I difetti di Mary non li ricordo, ma sono gravissimi. Dobbiamo dare un'occhiata in giardino?» «I difetti di Freddy?» proseguì Cecil. «Ah, ne ha troppi. Nessuno, salvo sua madre, è in grado di ricordare i difetti di Freddy. Provi a elencare i difetti della signorina Honeychurch. Non sono innumerevoli.» «Lei non ne ha neanche uno», disse il giovane con solenne sincerità. «Ne convengo pienamente. Per il momento non ne ha neanche uno. Per il momento?» «Non sono cinico. Sto semplicemente pensando alla mia teoria prediletta sul conto della signorina Honeychurch. Le sembra ragionevole che suoni il pianoforte in maniera così meravigliosa e che conduca una vita così tranquilla? Sospetto che un giorno questa ragazza sarà meravigliosa sotto ambedue gli aspetti. I suoi compartimenti stagni andranno a pezzi e musica e vita si fonderanno insieme. Allora saremo in presenza di una persona eroicamente rara, eroicamente comune, troppo eroica forse, per essere l'una o l'altra cosa. Cecil cominciava a trovare interessante il compagno. Mentre adesso lei pensa che non sia meravigliosa per quanto concerne la vita? Ma devo dire che l'ho vista solo a Tunbridge Wells, dove non era meravigliosa, e a Firenze. Da quando mi sono trasferito a Summer Street, la signorina è stata sempre assente. Lei invece l'ha vista a Roma e sulle Alpi, non è vero? Ah, dimenticavo, la conosceva già prima, no? Non era meravigliosa neppure a Firenze, ma io mi ostinavo ad aspettare che lo fosse. E in che modo? La conversazione era diventata gradita a entrambi e si erano messi a passeggiare su e giù per la terrazza. Tanto varrebbe che tirassi a indovinare il prossimo pezzo che suonerà. A Firenze si aveva semplicemente la sensazione che avesse scoperto le ali e che intendesse adoprarle. Potrei mostrarle una bella vignetta nel mio diario italiano. La signorina Honeychurch in forma d'aquilone con la signorina Bartlett che regge lo spago. Vignetta numero 2, lo spago si rompe. Lo schizzo figurava, sì, nel suo diario, ma era stato eseguito in un secondo tempo, quando il signor Biba aveva considerato le cose dal lato artistico. Nella prima fase si era permesso di imprimere anche lui qualche furtivo strattone allo spago. Ma lo spago non si ruppe mai? No. Potrei forse non avere visto la signorina Honeychurch levarsi in aria, ma avrei certo sentito cadere la signorina Bartlett. Ora lo spago si è rotto, disse il giovane con voce bassa, vibrante, e si accorse immediatamente che fra tutte le forme presuntuose, ridicole, spregevoli di annunciare un fidanzamento, aveva scelto la peggiore. Maledisse il proprio debole per le metafore, aveva forse insinuato di essere un astro e che Lucy si stesse involando per giungere a lui? Si è rotto? Cosa intende dire? Intendo dire, rispose Cecil in tono asciutto, che Lucy sarà mia moglie. Il signor Bibb avvertì una punta di amara delusione e non seppe impedire che gli trapelasse dalla voce. Sono mortificato, le faccio le mie scuse. Non avevo idea che lei fosse in intimità con la signorina Honeychurch, altrimenti non avrei mai parlato in maniera così indelicata e superficiale. Signor Vice, avrebbe dovuto interrompermi. E proprio allora, in fondo al giardino, il signor Bibb vide Lucy in persona. Sì. Era rimasto deluso. Cecil, che ovviamente preferiva le congratulazioni alle scuse, storse la bocca. Era questa l'accoglienza che il mondo avrebbe riservato al suo gesto? Il mondo nel complesso lui lo disprezzava, ben inteso, come è giusto che lo disprezzino tutti gli uomini di mente profonda. È quasi un sintomo di raffinatezza. Ma era sensibile alle singole particelle che lo compongono mano a mano che gli si paravano davanti. Ogni tanto sapeva anche parlare senza peli sulla lingua. «Mi dispiace di averle procurato uno shock», disse seccamente. «Temo che la scelta di Lucy non riscuota la sua approvazione». «Questo no, ma ripeto, lei avrebbe dovuto interrompermi. La signorina Honeychurch, io la conosco solo da poco tempo. Forse ho sbagliato a esprimermi così liberamente sul conto suo parlandone con altri, tanto più parlandone con lei. Ritiene di aver detto qualcosa di indiscreto?» Il signor Bibb riprese animo. Insomma, quel Vice aveva l'arte di mettere il prossimo nelle situazioni più imbarazzanti. Si vide costretto a ricorrere alle prerogative della professione. No, non ho detto nulla di indiscreto. A Firenze previdi che la fanciullezza tranquilla, incolore, della signorina Honeychurch doveva finire. Ed è finita. Compresi sia pur vagamente che avrebbe potuto compiere qualche passo di importanza fondamentale. Lo ha compiuto. Ha imparato, lei permetterà che continui a parlare francamente, già che non ho fatto altro finora. Ha imparato che cosa significa amare. La lezione più grande, dicono taluni, che la nostra vita terrena abbia da impartire. Era giunto il momento di sventolare il cappello verso il terzetto che si avvicinava, e il signor Bibb non mancò di farlo. Lo ha imparato tramite suo, e se la voce di lui era ancora clericale, adesso fu anche sincera. Provveda dunque a che questa cognizione le giovi. «Grazie tante», disse Cecil, che non vedeva i preti di buon occhio. Ha sentito? Urlò la signorina Honeychurch mentre risaliva affannosamente il pendio del giardino. Ah, signor Bibb, ha sentito la novità? Freddy, ora al colmo dell'allegrezza, fischiava la marcia nuziale. È raro che la gioventù critichi il fatto compiuto. Altro che, gridò il signor Bibb. Poi guardò Lucy. In sua presenza non riuscì più a comportarsi da prete, perlomeno senza giustificarsi. Ecco, signora Honeychurch, sto per fare ciò che sarei tenuto a fare sempre, ma che generalmente interviene la timidezza a impedirmelo. Desidero invocare su questi giovani benedizioni di ogni specie, gravi e gaie, grandi e piccole. Desidero che per tutta la vita essi siano supremamente buoni e supremamente felici come marito e moglie, come padre e madre. E infine, desidero il mio tè. Era ora che lo chiedesse, ribatté la padrona di casa. Come si permette tanta solennità a Windy Corner? Il signor Bibb si adeguò al tono da lei suggeritogli. Bisognava finirla con la benevolenza pesante, coi tentativi di nobilitare la situazione mediante la poesia o la sacra scrittura. Nessuno di loro ebbe più il coraggio o la capacità d'essere serio. Così fu che dopo le copiose elucubrazioni e apprensioni del pomeriggio, il morale della compagnia si risollevò e l'ora del tè trascorse in maniera piacevolissima. Anche se erano ipocriti, non lo sapevano, e la loro ipocrisia ebbe la più ampia opportunità di decantarsi e diventare sincera. Ann, posando ogni piatto come se fosse stato un regalo di nozze, li stimolò grandemente. Impossibile battere la fiacca quando si era fatti segno a un sorriso come quello che la ragazza largiva equamente ai commensali prima di sferrare il calcio d'obbligo alla porta di comunicazione col salotto. Il signor Bibb cinguettava. Freddy sfoggiò tutto il suo spirito, ribattezzando Cecil il fiasco, secondo un bisticcio in onore presso la famiglia sulla parola, fiancé. La signora Honeychurch, arguta e imponente, dava a sperare bene in veste di futura suocera. Quanto a Lucy e a Cecil, per i quali era stato costruito il tempio, parteciparono anche loro all'allegro rituale, ma in attesa, come si addice a fervidi fedeli, che si svelasse un più sacro altare di letizia. Pochi giorni dopo l'annuncio del fidanzamento, la signora Honeychurch volle che Lucy e il suo fiasco l'accompagnassero a un piccolo garden party nei dintorni, poiché era logico che desiderasse mostrare ai conoscenti che sua figlia avrebbe sposato un uomo presentabile. Cecil era più che presentabile. Aveva distinzione, ed era un vero piacere osservare il suo personale slanciato, che si adeguava al passo di Lucy e l'animazione che gli si destava sul volto pallido e lungo non appena Lucy gli rivolgeva la parola. La gente si congratulò con la signora Honeychurch e questo, a parere mio, è uno sproposito mondano, ma lei se ne compiacque e senza badare per il sottile presentò Cecil a un gruppo di vecchie matrone irrancidite. Durante il tè accadde una disgrazia. Fu rovesciata una tazzina di caffè sull'abito di seta imprimé di Lucy. E sebbene Lucy ostentasse indifferenza, sua madre non ostentò nulla del genere, ma la trascinò in casa per affidare il vestito alle cure di una cameriera comprensiva. Rimasero assenti per un certo tempo e Cecil fu lasciato solo a vedersela con le matrone. Quando tornarono, il giovane era un po' meno amabile di prima. «Vi date spesso a simili sollazzi?» domandò in carrozza sulla via del ritorno. «Beh, ogni tanto», rispose Lucy, che si era abbastanza divertita. «Sono tipici delle buone famiglie della contea?» «Credo di sì, non è vero, mamma?» «Buone famiglie!» «Ce n'è finché si vuole», disse la signora Honeychurch, che stava cercando di ricordare il panneggio di un abito. Accortosi che la signora aveva la testa altrove, Cecil si piegò verso Lucy e disse: «A me è parso un orrore, una calamità, un disastro!» «Mi dispiace moltissimo che tu sia rimasto bloccato così a lungo. Non è questo che conta. Ma le congratulazioni? Trovo ripugnante che si consideri il fidanzamento un fatto di dominio pubblico, una specie di luogo di rifiuti dove il primo venuto è autorizzato a scaricare i suoi volgari sentimentalismi e tutte quelle vecchie smorfiose. Bisogna passarci per forza, immagino. La prossima volta non ci terranno tanto gli occhi addosso. Ma io sostengo che il loro atteggiamento è sbagliato, da cima a fondo. Il fidanzamento, odiosa parola innanzitutto, è una faccenda privata e si dovrebbe trattarlo come tale. Ciò nonostante le vecchie smorfiose, per sbagliate che fossero individualmente, erano corrette dal punto di vista razziale. Lo spirito delle generazioni aveva sorriso tramite loro, rallegrandosi del fidanzamento di Cecil e Lucy, perché prometteva la continuazione della vita in terra. A sé Silelù si prometteva qualcosa di totalmente diverso, l'amore personale. Ecco il perché dell'irritazione di Cecil e del convincimento di Lucy che la sua irritazione fosse legittima. «Com'è stato seccante per te?» disse. «Non potevi rifugiarti al tennis?» «Io non gioco a tennis, non in pubblico almeno. Il vicinato dovrà pertanto rinunciare a vedere in me un romantico atleta.» Cecil, dopo il fidanzamento, si era messo a ostentare una spregiudicatezza cosmopolita che era lontano dal possedere. «Boh», soggiunse il giovane, «non posso farci nulla se davvero i vicini trovano da ridire sul mio conto. Esistono fra me e loro certe barriere inamovibili e non mi resta che accettarle.» «Tutti noi abbiamo i nostri limiti, direi», obiettò Lucy, la saggia. «Certe volte però ci vengono imposti», ribatté Cecil, arguendo da quella risposta che Lucy non comprendeva esattamente la sua posizione. «E come? C'è differenza, ne è vero, se siamo noi a trincerarci volutamente in noi stessi? O se sono le barriere innalzate da altri a confinarci nell'isolamento?» Lucy rifletté un istante e convenne che effettivamente la differenza c'era. «Che differenza?» gridò la signora Honeychurch, rizzando gli orecchi all'improvviso. «Io non ci vedo nessuna differenza. Le barriere sono barriere, soprattutto quando stanno nello stesso posto.» «Parlavamo di moventi spirituali», disse Cecil, urtato dall'interruzione. «Mio caro Cecil, guarda qua!» E la signora Honeychurch, allargati i ginocchi, si posò precariamente in grembo il portabiglietti. «Questa sono io e questa è Windy Corner. Il resto dello spazio è occupato dall'altra gente. Non ho nulla in contrario ai vostri moventi, ma la barriera eccola qui.» «Ma noi non parlavamo di barriere concrete», disse Lucy ridendo. «Ah, capisco, cara. Si trattava di poesia.» La signora Honeychurch si riadagiò placidamente al suo posto. Cecil non riusciva a capire perché Lucy si fosse divertita. «Lo so io chi è che non ha intorno a sé delle barriere, come tu le chiami», disse la ragazza. «Il signor Beeb.» «Sospetto che un prete indifeso sia anche un prete indifendibile.» Lucy era lenta a seguire quel che dicevano gli altri, ma sufficientemente svelta a cogliere il significato delle loro parole. Non comprese la frecciata di Cecil, ma intuì il sentimento che l'aveva ispirata. «Non ti piace il signor Beeb?» domandò pensosamente. «Non ho mai detto una cosa simile», esclamò Cecil. «Lo giudico parecchio superiore alla media. Volevo semplicemente negare che...» E si lanciò di nuovo nel tema delle barriere e fu brillante. «Ecco, un sacerdote che non posso soffrire», disse Lucy, desiderosa di esprimere in qualche maniera il suo consenso, «un sacerdote che si trincera dietro le barriere più orrende è il signor Iger, il cappellano della colonia inglese di Firenze. Era insincero nell'animo, non puramente di modi scostanti, era uno snob e pieno di vanità e diceva delle cose molto cattive.» «Che specie di cose?» «Alla pensione Bertolini c'era un vecchio e il signor Iger disse che aveva assassinato sua moglie.» «Forse era vero.» «Eh no.» «Perché?» «Eh no.» «Perché era un vecchio tanto caro, questo lo so di sicuro.» Cecil rise dell'illogicità femminile di Lucy. «Io cercai di appurare il fatto, ma il signor Iger non volle mai venire al punto essenziale. Preferì lasciarlo nel vago, disse che quel vecchio aveva virtualmente ucciso sua moglie, che l'aveva uccisa al cospetto di Dio.» «Sta un po' zitta, carina», ammonì distrattamente la signora Honeychurch. «Ma non è intollerabile che una persona che ci viene additata, ad esempio, vada in giro a spargere calunnie. Credo fosse soprattutto per colpa sua che tutti voltavano le spalle al disgraziato. Sostenevano che era volgare e invece non lo era di certo.» «Poverino, e come si chiamava?» «Harris», rispose prontamente Lucy. «Signora Harris», disse sua madre. «Questa persona qui non c'è mai stata, si spera.» Cecil annuì con aria saputa. «Questo signor Iger non appartiene al tipo del prete colto?» domandò. «Non saprei, io lo detesto. L'ho sentito sdottoreggiare su Giotto. Lo detesto. Nulla può nascondere una natura meschina. Io lo detesto sul serio.» «Misericordia!» esclamò la signora Honeychurch. «Benedetta figliola, mi farei scoppiare la testa. Che bisogno c'è che tu strilli a quel modo? Proibisco sia a te che a Cecil di detestare altri preti.» Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it.